Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora le borse, dopo un tentativo di recupero durato metà seduta, quindi fino alla tarda mattinata, hanno adesso imboccato la via del ribasso, non in maniera drammatica rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma comunque un punto percentuale di calo a Parigi, l'1,2 a Milano, anzi l'1,5 sull'S&P MIB. Il motivo si chiama Wall Street ha aperto debole e sta continuando con questa debolezza, meno 2% il Dow Jones, meno 2% anche il Nasdaq oggi, l'euro sul dollaro a quota 1,28 e sulla sterlina a quota 90 pence. I titoli, di nuovo la pressione sulle banche, nel giorno in cui, parlo dell'Italia, arriva il decreto sui Tremonti Bonds, quindi prestiti alle banche, un pacchetto e una disponibilità da 10 miliardi di euro con tassi tra il 7,5 e l'8,5%, ne parleremo più avanti. Dicevo pressione sulle banche perché Unipol perde il 7% adesso, la Popolare di Milano il 6,6%, Alleanza il 5,80%, UbiBanca meno 5,5%, Fondiaria meno 4,90, Generali meno 4,5% e anche il Banco Popolare perde il 4,3%. Negativa Telecom Italia del 4,4%, Mondadori del 3,4% come Prismian, il 2,80% è il calo di Tenaris e di Fiat, ma anche di Pirelli che perde adesso però il 2,3% e A2A meno 2,2% come Atlantia. Chi guadagna? Molto bene i Italcementi, più 4,90%. L'Espresso più 4,2%, Impregilo più 3,7%, Fastweb più 3,2%, Mediolanum più 2,8%, Saipem più 2,6%, Autogrill più 1,6%. Come sentite c'è un certo numero di titoli anche positivi. Parmalat più 1,3%, Finmeccanica recupera l'1% oggi alla luce anche di un contratto, ne parleremo tra poco, è arrivato l'annuncio da Abu Dhabi, dagli Emirati Arabi, che gli Emirati Arabi hanno scelto l'Air Macchi, l'M346, come possibile addestratore della loro aviazione. Si tratta di un ordine molto importante perché era una notizia molto attesa in questi giorni. Si tratterebbe di 48 addestratori con un livello abbastanza importante di investimento. Non si è ancora alla fase dell'acquisto, si è alla fase della scelta, cioè si è scelto di trattare con Air Macchi. Ne parleremo in diretta con il numero uno di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini. Parleremo anche chiaramente del tema più delicato e che ha avuto maggiore risonanza, ossia la messa in discussione da parte di Barack Obama della seconda tranche di consegna dell'elicottero presidenziale, quello che è un elicottero Augusta Western, per quanto, quindi italiano, per quanto poi assemblato negli Stati Uniti. Dicevo Finmeccanica più 1%, anzi l'1,2% adesso, mezzo punto percentuale Intesa San Paolo, che quindi in controtendenza. Devo dire che sia Intesa che Unicredito non perdono tanto, Unicredito perde lo 0,26%, Intesa appunto guadagna mezzo punto percentuale. Sono più le altre banche a essere sotto pressione oggi, Eni un leggero calo dello 0,13%. Allora, l'ultima cifra come sempre è quella per i vostri sms, 349-238-6666, per i vostri messaggi al programma. Parleremo quindi di Finmeccanica, dei Tremonti Bond, quindi di quali banche potrebbero e con che modalità potrebbero farvi ricorso, ma anche del deteriorarsi della situazione in tutto l'est Europa, nel caso specifico in Russia. Rapidamente, come sempre, le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda, e anche questo sarà oggetto di un nostro approfondimento, le stime sull'andamento dell'economia, nel 2009 il PIL calerà, secondo l'ISAE, che è l'istituto di analisi economica governativo, calerà del 2,5%, nel 2010 potrebbe iniziare una lenta ripresa dello 0,4%, ma quest'anno il deficit salirà al 4%, il debito al 110,3%. Aumenterà e non di poco anche la disoccupazione, che salirà all'8,1% quest'anno e salirà ancora di più l'anno prossimo all'8,5%. A subire i tagli più grossi quanto a occupazione saranno proprio i precari, dice l'ISAE, infatti, che dovrebbero essere 230.000 i posti di lavoro persi quest'anno per la crisi economica, nella maggior parte dei casi posti di lavoro di contratti cosiddetti precari. Però c'è anche una buona notizia, per quanto conseguenza del rallentamento e recessione economica dell'economia, e cioè secondo l'ISAE nel 2009 l'inflazione scenderà anche sotto l'1%, e quindi almeno da quel punto di vista chi il posto di lavoro lo manterrà e ha un reddito fisso dovrebbe vedere un certo recupero nel potere di acquisto. Nel frattempo l'Istat diffonde il dato sulle vendite al dettaglio nel 2008. Il calo è brusco, meno 0,6%, il peggiore dal 1997 nella vendita al dettaglio, che significa i beni di maggior consumo, di solito divisi tra alimentari e non alimentari, anche di questo parleremo. E poi ci sono sempre queste notizie un po' marginali, ma che la dicono lunga sulla la cronaca di questa crisi economica. Per esempio il fatto, forse alcuni di voi l'hanno già letto sui giornali, che all'Harris Bar di Venezia, Arrigo Cipriani, il mitico bar di Hemingway, il mitico bar veneziano, ma insomma il proprietario Arrigo Cipriani ha firmato un accordo pilota con i dipendenti per allontanare ogni ipotesi di chiusura addirittura del locale. Praticamente ci sarà un premio di produzione per tutti i lavoratori, pari al 13% di quanto verrà guadagnato, e ci sarà quindi una specie di salario variabile, una parte fissa e una parte appunto in base agli incassi, e lo stesso Cipriani ha detto manterremo i livelli di occupazione attuali. Nel frattempo si diceva del fronte internazionale, meno 45% l'export in Giappone, l'export del Giappone a gennaio, è volato anche il deficit della bilancia commerciale che ha toccato gli 8 miliardi di euro, e questo perché soprattutto è crollata la produzione giapponese di auto. Toyota, Honda e Nissan hanno infatti visto cali molto forti. Toyota ha visto una frenata della produzione del 40% sul fronte interno e del 44% sul fronte estero. Honda, che è il numero 2 in Giappone quanto a produzione di auto, ha visto un calo della produzione del 23% e meno 46% l'export, e Nissan ha visto la produzione domestica calare di quasi 60%. E visto che le esportazioni di auto sono una delle voci principali della bilancia commerciale giapponese, non sorprende appunto il crollo delle esportazioni giapponesi. Tra l'altro poi questa crisi globale sta anche portando iniziative mai viste prima. Per esempio in Australia, l'Australia ha deciso di ridurre il numero di quote di immigranti che ogni anno pubblica. L'Australia ha un sistema di quote molto molto preciso, chiede ogni anno un certo numero di idraulici, ingegneri, infermieri, medici, così. Insomma, ha deciso di ridurre la quota annuale di immigrati per la prima volta in 8 anni. Si diceva dell'est Europa, ne parleremo più avanti. Standard & Poor's ha tagliato il rating sovrano portandolo da B a tripla C, un livello molto molto basso per quello che riguarda l'Ucraina, mentre in Russia il ministro delle finanze ha fatto sapere, si tratta di Alexei Kudrin, che il deficit russo toccherà l'8% nel 2009. E ricordo che ieri il dato sul PIL russo a gennaio ha visto un calo dell'8,8% rispetto all'anno prima. Il tutto dopo le indicazioni, gli appelli, le analisi di Barack Obama ieri, molti di voi lo hanno già letto, il discorso alle Camere riunite. Barack Obama ha confermato che il 2009 sarà un anno molto difficile, anche perché ha ragione in cui la Federal Reserve ha detto attenzione, qua si rischia di andare avanti per 2-3 anni, come difficoltà dell'economia dipenderà molto da quando si ricreerà un clima di fiducia sui mercati. E comunque Obama aveva dato un'iniezione, perlomeno questa era l'intenzione, di fiducia alla comunità non solo finanziaria, non solo economica, ma tutta l'opinione pubblica americana, ricordando che non verrà abbandonata l'industria dell'auto, che in tempi brevi arriverà una legge per regolamentare il sistema finanziario, ha assicurato gli americani che i loro depositi in banca sono tranquilli e non corrono minacce. Poi ha detto che lavorerà con il G20 contro il protezionismo. Sentiamo il passaggio forse più importante, l'appello anche più ispirato, diciamo, dell'intervento di Barack Obama al Congresso americano e anche al Senato, visto che appunto parlava a Camere riunite. The state of our economy is a concern that rises above all others. Lo stato del nostro sistema economico è la preoccupazione principale che va oltre le altre. Anche se non siete stati colpiti direttamente dagli effetti della recessione, probabilmente conoscete qualcuno che lo è stato. Un amico, un vicino, un membro della vostra famiglia. Non avete bisogno di leggere altre statistiche per sapere che la nostra economia è in crisi, perché lo vivete sulla vostra pelle ogni giorno. La parola crisi è quella con cui vi svegliate ogni mattina. Avete perso il lavoro che avevate, le opportunità su cui avete costruito i vostri sogni sono appese a un filo, le lettere per iscrivere i vostri figli ai college sono state riposte nelle buste. L'impatto di questa recessione è reale e diffuso ovunque. La nostra fiducia è scossa. Stiamo vivendo un periodo difficile e incerto. Stasera voglio che tutti gli americani sappiano che ricostruiremo la nostra economia e che gli Stati Uniti d'America usciranno dalla crisi più forti di prima. We will recover and the United States of America will emerge stronger than before. Così Barack Obama ieri sera. Noi restiamo in un tema che tocca anche alcune dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente americano, mi riferisco al gruppo Finmeccanica e all'elicottero presidenziale. In realtà la notizia di oggi, la cronaca, riguarda una buona notizia per il gruppo Finmeccanica, ecco perché guadagna adesso l'1,4% in borsa. Dopo numerosi giorni di attesa dagli Emirati Arabi è in corso in questo momento l'IDEX, che è il salone internazionale più importante nell'area medio orientale per l'aerospazio e la difesa. Presente il gruppo Finmeccanica con tutte le sue controllate, Augusta Western, Ermacchi, Selex, Sistemi Integrati, spero di non dimenticare Otto Melara, spero di non dimenticare qualche altra presenza, il gruppo Fincantieri. Ma dicevo, era nell'aria la possibilità che una gara tra la nostra Ermacchi e i coreani l'industria coreana che produce il T-50, per quale avrebbe dovuto essere il nuovo addestratore dell'aviazione degli Emirati Arabi. Ecco, si sapeva che la gara era molto difficile. Poco fa è arrivata la notizia che gli Emirati Arabi hanno sciolto la riserva e hanno deciso di trattare con l'Air Macchi. 48 addestratori, il modello si chiama M346 e l'intesa è un'intesa che prevede, come spesso avviene in questi casi, una joint venture, cioè non verranno venduti solo dall'Italia, ma verranno anche assemblati in loco. Ne parliamo e lo ringrazio per essere in collegamento con il presidente e l'amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Golguaglini. Buonasera. Buonasera. Allora, ho 48 addestratori Ermacchi, come dicevamo, l'M346, ordinati dagli Emirati Arabi Uniti. Anche l'Italia avrà questo addestratore, ne acquisirà 15, la nostra aeronautica militare. Vorrei capire i termini di questo primo, diciamo, comunicato, quali sono? Dove verranno costruiti, assemblati? C'è una joint venture, se ho ben capito, tra voi e gli Emirati Arabi? Sì, dunque, il discorso è che ora siamo stati selezionati, quindi ora c'è la vera trattativa per giungere al contratto finale. Verrà formata una joint venture fra Ermacchi e Mubadala, quindi ci sarà una fabbrica negli Emirati che farà l'assemblaggio finale degli aeroplani, e questo è molto importante perché farà crescere l'industria degli Emirati. Vorrei anche dire che abbiamo avuto il supporto, come le sa, del sottosegretario Crosetto, che accompagnato da capo di Stato Maggiore Camporini era in questi giorni negli Emirati, e quindi è molto importante perché il paese ha dimostrato di far sistema in questo caso. Ce le dice la presenza del sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, del capo di Stato Maggiore Camporini in questi giorni durante il salone IDEX a cui facevamo riferimento, quello che si sta tenendo negli Emirati Arabi, è servita, diciamo, come lavoro appunto congiunto di lobby, ma in senso positivo, a far scegliere gli Emirati il vostro aereo. L'alternativa era, lo ricordo, l'aereo coreano T-50, un altro addestratore che da quello coreano che si... americano. Coreano-americano, giusto, perché di mezzo c'era anche la Lockheed, se non ricordo male, e quindi era una gara abbastanza aperta. A questo punto gli Emirati hanno sciolto la riserva e hanno deciso di trattare con voi. Verranno assemblati dove questi aerei? In Abu Dhabi. In Abu Dhabi, quindi c'è una presenza, ci sarà una presenza in loco delle Ermacchi. Sì, e poi questo aeroplano sicuramente noi cercheremo di vendere ad altri paesi, quindi parte verrà ancora assemblato in Abu Dhabi. Ecco, quanto importante è per voi il fatto che questo Ermacchi M346 venga per la prima volta acquisito, ragionevolmente, se non vi saranno sorprese, da un stato estero? Cioè, questo vi permetterà poi di andare a venderlo meglio negli altri mercati? Ah, io sono sicuro di questo, perché chiaramente abbiamo il nostro cliente nazionale, che sono le forze aeree italiane, però è molto importante avere subito un altro paese di riferimento. Dato che l'aereo è da tutti considerato e stimato notevolmente, il fatto che possiamo mettere in piedi una produzione per ben più di 50 aerei farà sì che, secondo me, velocemente potremmo iniziare altre trattative, perché l'aereo è interesse di molti avere come trainer, e quindi penso che questo sarà solo il primo passo. Sono convinto che questo sarà un aereo di successo. Si calcola, se ben capito, che complessivamente a livello mondiale vi possa essere bisogno di circa 2.000 aerei addestratori, chiaramente non tutti forse delle Ermacchi, ma insomma questo è il mercato potenziale? Mercato potenziale è sicuramente questo. Chiaramente i nostri obiettivi iniziali sono più modesti, però dipenderà molto dall'evolversi di questo mercato e anche di come il prodotto risponderà alle esigenze dei vari paesi. Sempre su questo fronte, tra l'altro, voi continuerete, se ho ben capito, in una politica che si chiama emiratizzazione, cioè con gli Emirati Arabi e con altri paesi del Golfo cercate più che altro di fare joint venture più che di vendere il prodotto finito? Questo lo abbiamo detto da molto tempo. Comunque con gli Emirati, con Mubadala, noi ci abbiamo in corso, come lei sa, un altro joint venture che riguarda la produzione di compositi, parte di compositi in loco. Questo è chiaramente basato sulla nostra esperienza, sulla nostra tecnologia che ci siamo fatti sia fornendo Airbus sia fornendo Boeing. Quindi il discorso che stiamo facendo con gli Emirati è molto più allargato. Cioè, abbiamo anche una società che si occupa degli aspetti del navale, siamo presenti con gli elicotteri. Noi abbiamo scelto alcuni paesi, su questi stiamo cercando di trovare degli accordi significativi per poter essere presenti in modo molto importante. Ancora, per quello che riguarda invece l'altro fronte aperto, e mi riferisco all'elicottero americano, abbiamo visto l'elicottero del Presidente, con i dubbi che sono sorti nell'amministrazione Obama sui costi. Vorrei capire anche che cosa è successo. Allora, questa scheda ricorda la gara, la scheda che stiamo per ascoltare, la gara e quando avete vinto la gara nel 2005, il numero di velivoli e anche quali le due tranche nella consegna dei velivoli. Ascoltiamo. Capace di rispondere agli attacchi di ogni tipo e persino di volare in uno scenario di attacco nucleare, il superelicottero che dovrebbe rinnovare la flotta presidenziale statunitense sembra essere diventato all'improvviso troppo caro anche per le facoltose casse del Pentagono. A costruirlo, come è noto, sono l'americana Lockheed Martin e Augusta Westland, società dell'italiana Finmeccanica, che nel 2005 si sono aggiudicate la commessa superando il concorrente statunitense Sikorsky, che rifornisce il Pentagono dai tempi di Eisenhower. più veloce, più capiente e con maggiore autonomia rispetto all'attuale Marine One, che tante volte abbiamo visto in TV o al cinema atterrare nel prato della Casa Bianca, il nuovo elicottero presidenziale aveva un costo iniziale di circa 200 milioni di dollari. Poi le richieste aggiuntive quanto a dotazioni di sicurezza arrivate dal Pentagono in corso d'opera hanno via via fatto lievitare il prezzo di questa fortezza volante fino a quasi 400 milioni di dollari. Budget raddoppiato che moltiplicato per i 32 velivoli previsti dalla commessa portano l'esborso complessivo a carico delle casse statali oltre gli 11 miliardi di dollari. Una cifra che in tempi di crisi e di tentazioni protezionistiche ha fatto storcere il naso ad alcuni esponenti del Congresso e ipotizzare una revisione degli accordi. In realtà 7 elicotteri sono già stati consegnati, altri 2 arriveranno tra marzo e aprile. L'eventuale revisione riguarderebbe dunque i rimanenti 23 velivoli della commessa. Tecnicamente, in caso di scostamenti del budget del 25%, la revisione scatta per legge, ma con esiti piuttosto scontati, visto che gli annullamenti sono stati appena 2 su 33 casi. Ma questa volta l'esito pare più incerto, visto che la partita pare molto più politica che tecnica o economica. Quindi, presidente Guarguaglini, erano 2 tranche, di cui una prima, 7 elicotteri, altri 2 che stanno arrivando tra marzo e aprile. L'eventuale revisione, se ho ben capito, riguarderebbe gli altri 23 velivoli? Dunque, vorrei precisare questo fatto. Noi abbiamo vinto una gara, dopodiché il cliente finale in questo caso è la Casa Bianca, più il Pentagono, più la Navy, hanno chiesto degli miglioramenti, delle cose aggiuntive che riguardavano essenzialmente più che la piattaforma, parzialmente la piattaforma, molto di più quello che sta a bordo dell'aereo. Questo c'è stato quindi un incremento 1 e noi stiamo lavorando su questo, e quello che noi portiamo nei nostri conti è questi elicotteri con questi apparati di bordo. Successivamente, ormai è più di un anno, il cliente ha chiesto di poter valutare anche altri miglioramenti di bordo, chiamato in modo semplice incremento 2. Chiaramente con il nuovo presidente questo incremento 2 deve essere valutato, potrebbe essere anche completamente azzerato, dove l'elicottero è quello dell'incremento 1, come potrebbe essere fatto una scelta, una via di mezzo, cioè non completamente l'incremento 2, ma un 1 maggiorato. Quello che è importante è che non è che c'è stato un incremento dei prezzi perché le cose costano più, sono state cose richieste, quindi aggiunte, e questo fa sì che è stato lievitato il prezzo. Il governo americano può scegliere, come ho detto prima, fare successivi mantenendo l'attuale configurazione, quindi tutto andrebbe abbastanza bene, o anche chiaramente decidere di non andare avanti, ma io credo che questa è l'ipotesi meno probabile, perché l'elicottero in sé risponde completamente alle esigenze iniziali. O può chiedere, o può invece pensare, fare tutti gli incrementi necessari e quindi avere un elicottero particolarmente sicuro, particolarmente performante, che chiaramente soddisfa tutte le richieste che vi sono state fatte. Quindi, se ho ben capito, l'elicottero iniziale costava costava inizialmente 200 milioni di dollari. Poi sono arrivate delle richieste dal Pentagono di nuove dotazioni e hanno fatto lievitare il prezzo fino ai 400 milioni. La prima fase di consegna ormai quella è chiara. Adesso gli altri 23 elicotteri, potrebbe succedere che il Pentagono mettesse completamente in discussione la commessa, e mi sembra che lei ritenga l'ipotesi più improbabile, oppure che si accontentasse, diciamo, della versione 1, ho capito bene? L'attuale versione, che costa meno? Beh, l'attuale versione è quella che costa ormai 400 più o meno, mi pare. Certo. No? E che quindi loro hanno su questa, non solo ci hanno pagato gli elicotteri, ma ci hanno pagato anche gli studi per fare questa configurazione. E la versione ulteriore costerebbe quindi ancora di più rispetto a 400 milioni? La versione dovrebbe prevedere degli studi in più, no? Certo. Degli apparati aggiuntivi che sono essenzialmente forniti dalla Lockheed, quindi il pezzo finale non lo so di preciso questo. Ecco, secondo lei alla fine l'ipotesi più probabile qual è? Perché insomma voi non avete messo... La cosa più probabile è che prevale l'idea di risparmiare, no? E di scegliere l'attuale configurazione, quella che noi stiamo fornendo, no? Oppure aggiungersi qualche piccola modifica per rendere, diciamo, tutto più rispondente alle esigenze di sicurezza e di, diciamo, di prestazioni che la Marina ritiene, Marina degli Stati Uniti ritiene necessario. Mm-hmm. Per cui insomma, o la cifra attuale di 400 milioni oppure qualche leggera modifica, ma non ai costi che abbiamo letto in questi giorni, cioè non ai costi che hanno lasciato molto perplesso Barack Obama? Beh, io penso che il Presidente prima di tutto ha bisogno di studiare a fondo il problema, no? Non credo quindi la decisione venga presa in pochi giorni, ma ci vuole un po' di tempo. Mi faccia spiegare, diciamo, sia dal Pentagono che dai militari che stanno a Casa Bianca il perché certe cose sono necessarie e poi prenda una decisione. Quindi penso un paio di mesi o tre ci vorrà di sicuro. Ecco, quindi tra 2 o 3 mesi voi vi attendete una risposta o comunque un'indicazione più chiara? Certo, tra 2 o 3 mesi penso che il Presidente prenderà la decisione di cosa vuole ricevere e quindi anche di quanto vuole spendere, questo pezzo. Lei non ritiene, Presidente Guarguaglini, che al di là della valutazione tecnica, quindi sulla richiesta che il Pentagono ha fatto aggiuntive, i costi aggiuntivi, ci possa essere un problema di momentum, come dicono gli inglesi, una crisi molto forte in America e non solo, forse rende anche più difficile come immagine, quindi a livello anche politico, pagare così tanto un elicottero, cioè che possa essere più un ragionamento politico che non una reale valutazione tecnica? Ma quello sicuramente ci può essere, ma tenuto conto che molti programmi negli Stati Uniti in questo momento sono sotto osservazione, perché chiaramente il Presidente Obama dovrà farsi un budget globale che non comprende solo l'elicottero, ma anche il GSF, il Raptor, l'Osprey, tanti altri programmi. Chiaramente cercheranno di trovare la giusta soluzione per avere degli apparati notevoli prestazioni e una spesa contenuta. Io credo che la versione 1 sarebbe la giusta risposta in questo caso a trovare a non spendere tantissimo, ma avere veramente un elicottero nettamente superiore a quello attualmente usato dalla Presidenza degli Stati Uniti. Grazie, poi vedremo appunto fra 2 o 3 mesi come andrà a finire o quantomeno che indicazioni arriveranno. Grazie però al Presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini. Buonasera. Adesso il meteo, la pubblicità, poi i mercati, chiusura, devo dire, con un po' di recupero nell'ultima mezz'ora, ha recuperato quasi mezzo punto il Mibtel, perde lo 0,9, l'S&P MIB no, invece meno 1,4, un grosso recupero a Parigi e anche Francoforte, visto che parlavamo di Finmeccanica, il titolo ha chiuso ai massimi nel finale, più 1,8%, molto bene l'Espresso, Italcementi, Impregilo, e Fastweb decisamente male, invece Unipol, Alleanza, UbiBanca, Popolare di Milano, Banco Popolare, Fondiaria Assai e Telecom Italia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi della situazione nell'est Europa, nel caso specifico Ucraina e Russia. Rapidamente alcune risposte, alcuni messaggi sul tema di apertura. Ogni tanto c'è anche una buona notizia, è una buona notizia se un gruppo italiano come Finmeccanico si vede aggiudicare la gara per 48 addestratori negli Emirati Arabi. È un aereo che viene prodotto in provincia di Varese, la Ermacchi è italianissima. Alcuni di voi dicono, ma perché andiamo a assemblarlo lì, trasferiamo tecnologia? Attenzione, nel settore dell'aerospazio, quindi velivoli, ma anche radar, sistemi elettronici e della difesa, molto spesso è una richiesta, fa parte degli accordi avere una joint venture, per cui il prodotto non viene consegnato impacchettato e finito, ma si creano delle fabbriche in loco, delle joint venture partecipate più o meno a metà tra le società del paese, in questo caso quindi gli Emirati Arabi e poi Finmeccanica. Non è che si vada a trasferire semplicemente know-how e quindi conoscenza, è che se non fai così le gare non le vinci, cioè qualunque paese vuole anche avere la possibilità di produrre lui stesso. L'abbiamo fatto noi negli anni 50 e 60 con la Gusta, che è diventata leader nella produzione di elicotteri grazie a molte licenze che aveva dato a suo tempo la Bell, per cui è normale e anzi è il metodo per riuscire a penetrare alcuni mercati, altrimenti se si trattasse solo di vendere il prodotto finito non si vincerebbero molto probabilmente le gare. La borsa, dicevamo, meno 1,4% l'S&P MIB, meno 0,95% il MIB, meno 0,4% Parigi, meno 1,3% Francoforte, meno 1,5% il Nasdaq in questo momento. Londra positiva dello 0,80%, l'America ha recuperato mezzo punto ma continua a perdere un punto e mezzo. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. La giornata è stata molto strana, cioè le borse avevano aperto positive, non tantissimo, ma insomma restavano tutte positive, poi un cambio di direzione e con Wall Street che ha segnato poi la rotta. Che è successo? Sì, guarda, già a metà seduta gli indici hanno rallentato il passo, visto che è emerso che Standard & Poor's ha rivisto al ribasso il rating sull'Ucraina. Poi Wall Street ha aperto negativo e poi ancora il dato sulla vendita di case in USA che è peggiorato. Tutto questo ha dato il là alle vendite e gli indici sono tornati a calare. Tra i titoli più colpiti, allora, diciamo chi è andato bene oggi, perché c'è anche una lista di titoli che bene si sono comportati. L'Espresso più 6,6, Italcementi più 4,4, Impregilo più 4, Fastweb più 3,4 come Mediolanum, il 2,4 rialzo di Saipem, l'1,8 quello di Finmeccanica e l'1,6 quello di Autogrill, un punto e mezzo guadagna Parmalat e poi a scendere Geox più 0,6, Intesa più 0,4. Mediobanca invariata, Eni pure, Unicredit ha perso uno 0,4%, poca cosa, ma invece poi c'è tutta una pattuglia di titoli che vanno male del settore bancario assicurativo: Unipol meno 7,3, Alleanza meno 6,2, Ubibanca meno 6, Popolare di Milano meno 5,5, Banco Popolare meno 5,2, Fondiaria meno 5,2, Telecom Italia meno 4,8, Prisma meno 4,2 come Mondadori. Come mai il settore banche e assicurazione con le due popolari, Milano e Banco Popolare, particolarmente sotto pressione? Sì, guarda, le banche infatti hanno registrato un andamento misto fino quasi alle ultime battute, quando poi sono peggiorate quasi tutte, tranne Intesa, come hai detto tu. Popolare di Milano in particolare è stata una delle peggiori durante della seduta, era arrivata a perdere l'8%, e questo perché gli analisti stanno un po' rivedendo al ribasso le stime. Pare che i manager dell'istituto peraltro siano molto più realistici anche in quelle che sono le prospettive per i conti del 2009, ma anche per i conti del 2008, che devono essere ancora comunicati, soprattutto sull'andamento del margine di intermediazione. Poi ovviamente si continua a ritenere che gli istituti abbiano scarsa visibilità soprattutto su quello che è il valore degli attivi, e quindi si continua a stare un po' distanti dalle banche, anche se va detto che soprattutto Unicredit, che poi è calata sul finale dello 0,47%, Intesa oggi tentavano il rimbalzo anche sulla notizia che è stata posta la firma ai cosiddetti Tremonti Bond, che dovrebbero ovviamente dare un respiro a tutti gli istituti cercando di migliorare i loro patrimoniali. Ancora sui titoli, questo riguardava infatti la parte banche e assicurazioni. Abbiamo visto in flessione anche Prismia, almeno 4,2%. Ci sono novità? No, guarda, è andato male un po' tutto il settore, diciamo, legato al ciclo. Sono andata male Prismia, ma ad esempio è andata male anche Pirelli, peraltro la concorrente Michelin ha dato conti poco brillanti. Fiat ha perso 2,11, Tenaris il 2,3, Seat il 2,6, Atlantia il 2,6, pure Pirelli, appunto, come tu ricordavi, quasi il 3% di calo. Forse ho dimenticato le generali, che hanno perso il 3,9. Sul fronte opposto, di Finmeccanica abbiamo già ampiamente parlato con Pier Francesco Corguaglini, presidente e amministratore delegato, ma l'Espresso più 6,6, se poi riusciamo a tenere dentro anche Italcementi e Impregilo che guadagnano più del 4%. Sì, infatti è stata una seduta a doppia faccia, alcuni titoli sono andati molto bene, Espresso ha guadagnato e allungato il passo soprattutto dopo la pubblicazione dei conti del 2008, che sono conti assolutamente in frenata, tuttavia migliori delle attese degli analisti. Peraltro poi il mercato ha recepito bene anche la notizia che Carlo De Benedetti resta presidente del gruppo su iniziativa del resto del figlio Rodolfo De Benedetti, quindi sembrano messe a tacere anche tutte le voci di un dissidio in famiglia proprio dopo questa decisione. Comunque, ripeto, anche a livello dei conti questi sono risultati migliori delle attese. Di nuovo in diretta, allora, si diceva di Italcementi e Impregilo che bene si sono mosse, oltre il 4% di rialzo. Eleonora. Ha beneficiato oggi un po' tutto il comparto delle grandi opere, delle costruzioni, ovviamente del cemento, perché il ministro alle infrastrutture Matteoli a Radio Anch'io ha spiegato che la stragrande maggioranza delle opere previste dal piano da 16,6 miliardi che è stato varato dal governo dovrebbe partire proprio quest'anno, nel 2009, fra queste anche il ponte sullo Stretto, che ha un valore di 6 miliardi e la cui costruzione è stata affidata appunto a Impregilo. Hanno immediatamente così accelerato le azioni di Impregilo, ma anche un po' di tutto il comparto, ripeto, delle costruzioni e del cemento. Tra questo Italcementi ha fatto appunto più 4,4%. E quindi insomma c'è anche in questo caso una notizia che riguarda poi le iniziative governative su certi settori. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Già si diceva all'inizio di questo collegamento che le borse hanno girato in negativo dopo, prima che aprisse ancora Wall Street, dopo un declassamento importante perché potrebbe, noi ci auguriamo di no, ma segnare la strada a altri declassamenti futuri. Mi riferisco all'Ucraina, Standard & Poor's ha abbassato il rating a un livello, dopo aver fatto ieri abbassato quello della Lettonia, ma la Lettonia è oggettivamente un po' più piccola. Il voto sul debito ucraino è sceso da B a tripla C, quindi due livelli in meno e vicinissimo al livello diciamo D, e già comunque sotto, siamo sette livelli sotto il grado di investimento sicuro sul debito dell'Ucraina. Ne parliamo adesso, e quindi Russia, Ucraina e anche Lettonia. Sì, perché come se non bastasse, visto che l'Est Europa è il problema europeo in questo momento, tra l'altro spesso in questi giorni abbiamo detto che il calo, in alcuni casi il tonfo di Unicredito e Intesa non dovuti anche alla loro esposizione nell'Est Europa, mentre il ministro delle finanze russo Alexei Kudrin ha detto che il deficit russo arriverà all'8% nel 2009 e il PIL russo a gennaio ha fatto un meno 8,8. Secondo quanto oggi riportano alcune fonti russe, ci sarebbero quasi un terzo delle imprese russe legate alla difesa che potrebbero essere vicine alla bancarotta. Vladimir Sapochnikov in collegamento con noi da Mosca, buonasera. Sì, buonasera. Infatti la produzione industriale, stando ai dati diffusi in questi giorni dal Comitato per le Statistiche Russe, parlano chiaro. La produzione industriale in gennaio è scesa del 16% rispetto a un anno fa, realizzando la peggior performance degli ultimi 10 anni. E questo è un dato che sicuramente non aiuta. Quali sono i rischi più forti? Perché insomma, la Lettonia, per carità, è un piccolo paese e si può anche immaginare un salvataggio, un aiuto. Abbiamo già visto il caso islandese, per cui. Ma l'Ucraina inizia a essere una taglia media nei paesi dell'Est Europa, per usare quasi un eufemismo, e oggi Standard & Poor's ha declassato il suo debito a un livello vicinissimo alla D, quasi insomma, tripla C comunque, e anche i timori sulla Russia. Ecco, qual è la situazione in generale? Dove si annidano i problemi e i rischi maggiori, Vladimir? Sì, praticamente è sempre molto difficile, impossibile quasi l'accesso per l'economia reale, per le imprese in tutte le repubbliche ex sovietiche, a cominciare dalla Russia e poi proseguire per l'Ucraina, le repubbliche dell'Asia centrale, l'accesso alla fonte creditizia, al mercato del debito. Praticamente le imprese non riescono a finanziarsi e questo rallenta la produzione. Ricordiamo che lo scorso gennaio il PIL russo è diminuito dell'8,8% sullo stesso mese del 2008. Destano molta preoccupazione anche l'afflusso degli investimenti esteri in Russia, che nel 2008 sono diminuiti rispetto al 2007 del 14,2%. La situazione in Ucraina è ancora più grave. Secondo le stime della banca centrale di questa Repubblica ex sovietica, il prodotto interno lordo in gennaio è crollato veramente, del 20%, mentre la produzione industriale ha registrato una contrazione del 34,1%. Le conseguenze non sono fatte attendere, come abbiamo visto questo declassamento da parte dell'agenzia Standard & Poor's. Ancora, poi tra l'altro l'Ucraina è un caso specifico particolare, perché esportando soprattutto acciaio, prodotti chimici e fertilizzanti, è chiaro che la recessione globale l'ha penalizzata ancora di più. Le misure che potrebbe prendere soprattutto il governo russo in questo momento, perché da noi si parla molto di nazionalizzazione delle banche, non in Italia nel caso specifico, ma a livello europeo, mi sembra che in Russia si possa arrivare a una nazionalizzazione dell'economia, del sistema produttivo più che delle banche. Sì, naturalmente è in corso un dibattito molto, molto forte al vertice del governo, al Cremlino, come ricucire, come risistemare la legge finanziaria del 2009. Si propone di ridurre naturalmente la spesa pubblica, mettendo a rischio anche diversi programmi sociali che il neopresidente Dmitry Medvedev naturalmente non può permettersi. Poi c'è chi sostiene che invece di stanziare decine di miliardi di dollari dai fondi di riserva come misure di salvataggio per le grandi industrie, per l'industria petrolifera, per le maggiori banche pubbliche statali, il governo invece dovrebbe trovare un sistema per dare dei soldi ai consumatori, alla gente, insomma, per aumentare i consumi, la riduzione dei consumi, una conseguenza diretta del calo dei redditi reali disponibili della popolazione, minaccia di far passare nel 2009 il PIL russo in campo negativo, che potrebbe scendere a meno 5% rispetto al 2008. Staremo a vedere, perché questa è una difficoltà che può essere superata, poi se ci sono anche i soldi, se la Russia riesce a raccogliere i soldi sul mercato. Per ora grazie. Sì, alcuni di voi scrivono anche i rating, cioè il voto sul debito di Estonia e Lituania sono sotto osservazione e sono a rischio. È chiaro che tutta l'area, diciamo, che è messa molto male, l'Ucraina, ripeto, pesa un bel po' di più rispetto alle repubbliche baltiche. Grazie a Vladimir Sapochnikov in collegamento con noi da Mosca. Adesso il GR e poi torniamo in diretta per parlare invece dei casi di casa nostra, ossia il Via Libera. Oggi è arrivato il decreto sui Tremonti Bonds, quindi di prestito fino a 10 miliardi complessivi che il governo farà alle banche attraverso delle obbligazioni, questo vuol dire bond, con tassi non agevolati tra il 7,5% e l'8,5%. Prima di parlarne però vi anticipo che era l'Europa a chiedere dei tassi anche alti, perché altrimenti un prestito fatto con degli interessi troppo bassi sarebbe diventato di fatto un aiuto di Stato alle banche italiane. Di nuovo in diretta. Allora, si diceva di Italcementi e Impregilo che bene si sono mosse, oltre il 4% di rialzo. Eleonora. Ha beneficiato oggi un po' tutto il comparto delle grandi opere, delle costruzioni e ovviamente del cemento, perché il ministro alle infrastrutture Matteoli a Radio Anch'io ha spiegato che la stragrande maggioranza delle opere previste dal piano da 16,6 miliardi che è stato varato dal governo dovrebbe partire proprio quest'anno, nel 2009. Fra queste anche il ponte sullo Stretto, che ha un valore di 6 miliardi e la cui costruzione è stata affidata appunto a Impregilo. Hanno immediatamente così accelerato le azioni

alimentari diminuite dell'1,6%. Nel settore il calo più significativo nel 2008 è stato registrato dagli elettrodomestici, radio, TV, registratori in ribasso del 2,5%, mentre quello più contenuto spetta a prodotti farmaceutici di 1 punto percentuale e alle dotazioni per l'informatica, telecomunicazioni, telefonia e generi casalinghi durevoli e non durevoli. A livello geografico il valore totale delle vendite al dettaglio nel 2008 è rimasto invariato nel nord-est ed è diminuito nelle altre zone della penisola, con la flessione più ampia nel centro, circa dell'1,5%. Intanto sul fronte macroeconomico dati negativi arrivano anche dall'ISAE per il 2009, in linea con le previsioni di Confindustria. Prevede che il PIL nazionale quest'anno si contrarrà del 2,5%. Secondo l'Istituto Governativo di Analisi Economica, il 2009 sarà un anno di recessione, mentre nel 2010 inizierà invece un lento processo di ripresa. Il PIL aumenterà infatti il prossimo anno dello 0,4%, tre decimi in meno rispetto all'area euro. Rovescio della medaglia, l'aumento della disoccupazione di circa l'1%, con circa 230.000 occupati in meno rispetto alla media dello scorso anno, per circa tre quarti precari. A partire dal 2010 il numero di persone occupate dovrebbe tornare a crescere leggermente, dello 0,2%. Per quanto riguarda l'inflazione, l'ISAE prevede che sia nel 2009 che nel 2010 la crescita dei prezzi in Italia si posizionerà per tre decimi di punto sopra la media della zona euro. Queste quindi le prospettive dell'ISAE sul 2009 e il dato di fatto invece sul 2008 dell'Istat. Avete sentito, tengono un po' di più i consumi alimentari, ma è una cosa abbastanza attesa, invece vanno male i consumi non alimentari. C'è un'altra buona notizia oggi, a mio avviso, fermo restando che la borsa poi ha chiuso non sui minimi, anche se negativa, e riguarda il settore calzaturiero. L'Italia è il primo produttore di calzature in Europa, il sesto al mondo, ci sono 90.000 addetti. Io ricordo, molti di voi lo ricorderanno, che proprio il calzaturiero e il tessile già hanno dovuto fare molti sforzi in tempi non sospetti, quando ancora non si parlava di crisi, nel 2003, 2004, 2005, quando invece per loro la crisi si chiamava produzione a basso costo in Cina, e quindi hanno dovuto e hanno fatto una grandissima ristrutturazione del settore. Ebbene, il dato buono è che nel 2008, con tutte le difficoltà del caso, l'export è aumentato in valore del 3%, è calato come quantità di scarpe, detta brutalmente, ma il valore della merce esportata è aumentato, è di un dato anche significativo, come appunto il 3%. Saluta con soddisfazione questa notizia il presidente del Lanci Vito Artioli, che è l'Associazione Nazionale dei Calzaturieri Italiani, però chiede, insomma, non aiuti, ma che ci sia la possibilità, nei casi più drammatici di crisi, di dare la cassa integrazione anche ai cosiddetti terzisti del settore. Ascoltiamo al microfono del nostro Andrea Viali. Noi stiamo affrontando solo adesso la crisi, perché diciamo che avevamo gli ordini in portafoglio che ci hanno permesso di continuare a produrre per consegnare per la primavera estate, no? Poi ci siamo le prime uscite di gennaio, che sono state chiaramente deludenti, adesso avremo altre crisi, avremo altre uscite, ne abbiamo una settimana ventura, speriamo che non lo sia così deludente, ma certamente sarà durissima, che è il MICAM di Milano. Ci presentiamo nella mostra più importante del mondo, che organizziamo noi, ANCI, con il segmento più elevato. Però, da quello che so in giro per il mondo, le altre manifestazioni fieristiche stanno perdendo molto, molto più espositori di quelli che noi abbiamo, perché io posso parlare solo di espositori per ora. Noi abbiamo perso quasi nessun espositore, abbiamo perso 1.000-2.000 metri quadrati su quasi 100.000 metri quadrati. La nostra scelta, che è la mia scelta, di continuare a fare delle scarpe sempre più belle, sempre a livello elevatissimo qualitativamente, sempre up to date nella moda, sempre dal punto di vista tecnologico migliori, con un prezzo medio più elevato, per carità, che ci dà ne produciamo meno, ma ci dà un income sempre maggiore. E questo conta, non abbiamo perso che pochi dipendenti, no? Non dobbiamo perderne a più assolutamente, anzi dobbiamo aumentarne col tempo, e quindi dobbiamo avere l'aiuto della cassa integrazione, degli ammortizzatori sociali, ma non solo per coloro che sono nostri dipendenti da anni, ma soprattutto per i giovani. queste le richieste quindi del settore, e a stretto giro, visto che oggi si è tenuto un incontro a Roma proprio promosso dall'ANCI sull'industria calzaturiera, il sottosegretario allo sviluppo economico con delega al commercio estero, Adolfo Urso, sempre al microfono del nostro Andrea Viali. Il ministro Scajola ha già convocato il tavolo per del tessile, abbigliamento, calzature, il tavolo della moda, e quello riguardante le piccole e medie imprese, per concordare insieme al sistema produttivo cosa si può fare di più e di meglio rispetto a quanto il governo ha già messo in campo anche per questo settore, e mi riferisco in modo specifico alle misure per sostenere i consumi interni, che sono anche calzature, e quindi al sostegno alle famiglie più deboli, ai pensionati, agli incentivi per i beni durevoli, e nel contempo alle misure importanti e strategiche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Il Made in Italy, il sistema delle calzature dei distretti italiani, ha una risorsa in più, che è quella della qualificata manodopera, dell'alta professionalità di chi lavora in questo comparto, che noi dobbiamo mantenere all'interno del sistema produttivo. E aver realizzato un accordo strategico che ci permetterà di utilizzare nei prossimi mesi 8 miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali, estesi anche ai dipendenti delle piccole e medie imprese e ai precari, e quindi ai dipendenti delle piccole e medie imprese calzaturiere, è strategicamente importante per conservare questo patrimonio, che è la vera risorsa del Made in Italy, la sua qualificata forza lavoro. Bene, quindi anche dal tavolo potrebbero arrivare delle novità. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, e poi ultimo tema di questa puntata, il via libera ai Tremonti Bond. È infatti uscito il decreto, la cedola tra il 7,5% e l'8,5%, quindi l'interesse che le banche pagheranno allo Stato, al governo, per ottenere questi prestiti da 10 miliardi di euro complessivamente. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Dunque, poco fa il numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke, ha dichiarato che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, non prevede una nazionalizzazione delle banche, che invece c'è un piano importante per rimuovere gli asset tossici, ossia i prodotti tossici, come si chiamano ormai da mesi, nei bilanci delle banche. Questo nel giorno in cui, come ricordavamo, il ministro Tremonti in Italia ha firmato il decreto che dà il via libera alla sottoscrizione da parte del Tesoro di obbligazioni emesse dalle banche italiane. Cioè, cosa succede? Praticamente lo strumento, che deve seguire alcune regole comunitarie, ecco perché il tasso è così alto, le banche pagheranno una cedola annuale compresa tra il 7,5% e l'8,5%, e cioè emetteranno queste obbligazioni destinate solo al Tesoro, il Tesoro le comprerà e dovranno dare un rendimento a queste obbligazioni. Quindi, siccome l'obbligazione è un prestito, di fatto le banche chiederanno un prestito allo Stato e su questo prestito pagheranno tra il 7,5% e l'8,5%. Complessivamente la cifra a disposizione di 10 miliardi di euro. Alessandro Graziani, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Prima domanda che molti ci pongono, insomma, quali saranno i vincoli per le banche? Molti ascoltatori hanno paura che se le banche devono pagare un interesse così alto, poi lo scarichino su imprese e privati cittadini. In teoria la motivazione che spinge lo Stato a fare questo tipo di operazione è proprio l'opposto, è quello di consentire alle banche di aumentare il capitale e quindi in proporzione di poter aumentare gli impieghi a favore delle imprese, soprattutto delle piccole imprese, e quindi comunque più in generale di migliorare la capacità di fare credito alle aziende. Questo è il motivo per cui non solo in Italia ma anche in Francia e in altre nazioni europee sono stati strutturati questo tipo di prestiti, che hanno infatti dei vincoli anche in termini di misurazione poi successiva con una serie di parametri di erogazione del credito alle piccole e medie imprese. Ricordiamo che c'era stata anche una polemica tra l'ABI, l'Associazione delle Banche, e il Tesoro, perché il Tesoro chiedeva che ci fossero delle attente misurazioni coordinate addirittura alle prefetture per visionare lo stato di avanzamento dei crediti alle piccole e medie imprese nei mesi futuri successivi. E cioè, vedremo poi la formula utilizzata, ma insomma non dovrebbe essere possibile per le banche avere, ottenere dal tesoro con questo prestito per tenerlo in cassa, per tenerlo in pancia. Occorre che, e questo è esplicitamente detto anche nel decreto, che questo poi consente un allargamento dei cordoni della borsa e non semplicemente aumentare la capitalizzazione a eventualmente un tasso conveniente. Poi vedremo come si arriverà a un controllo di questo. Seconda domanda: è vero che in questo momento alcune banche hanno il timore o potrebbero avere il timore di chiedere questi prestiti perché vorrebbe dire ammettere che la situazione è più grave del previsto, oppure già si sta delineando la lista degli istituti che probabilmente vi faranno ricorso? Dopo che sono cambiate le condizioni economiche del prestito, che inizialmente prevedevano anche un premio di rimborso alla scadenza che avrebbe fatto diventare oneroso al massimo il prestito con tassi superiori al 20% per il primo anno, il fatto che è diventato il 7,5-8,5% e data la scarsità di capitale che c'è, la sensazione eventualmente, noi cerchiamo di spiegarla domani sul giornale, è casomai l'opposta, che ci sia il rischio di un ingorgo, addirittura di un eccesso di richiesta da parte delle banche, per cui i 10 miliardi previsti inizialmente dal Tesoro potrebbero non essere sufficienti, perché le banche grandi e medie molto probabilmente tutte accederanno a questo prestito, che poi non è un prestito perché di fatto è capitale, e che quindi ci possa essere addirittura una corsa ad averlo per primi in tempi rapidi. Cioè che possono non bastare i 10 miliardi di plafond complessivo messi a disposizione. In questo caso servirebbe un ulteriore decreto che allarghi ulteriormente il plafond stanziato al Tesoro, per cui le banche che dovessero accedere successivamente avrebbero bisogno di mesi ulteriori di attesa, perché servirebbero i tempi tecnici per l'emanazione del nuovo decreto. Certo. Ultima domanda, Alessandro Graziani, chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, ma perché, visti i tassi che non sono di favore, tra il 7,5% e l'8,5%, ripeto, era una richiesta europea, perché tassi troppo vantaggiosi avrebbero significato per Bruxelles aiuti di Stato alle banche, ma dicevo, visti i tassi così alti, perché le banche non converrebbe alle banche andare a cercare soldi sul mercato, cioè emettere obbligazioni o fare un aumento di capitale? Ma dunque, tra emettere obbligazioni e fare aumento di capitale c'è certo, un'enorme differenza, nel senso che le obbligazioni sono debito, l'aumento di capitale è capitale. Capitale. E l'aumento di capitale, dati i prezzi e i valori in questa fase di mercato, è difficile da realizzare, come è stato dimostrato in Europa in più occasioni. Il prestito, dall'altra parte, sono esclusivamente appunto prestiti che non vanno a migliorare i coefficienti patrimoniali delle banche, per cui questa formula ibrida che viene sottoscritta al Tesoro è nella sostanza l'unico mezzo possibile in questa fase, a meno che uno non abbia degli azionisti forti e che hanno grandi disponibilità che si fanno carico di sottoscrivere in proprio questi strumenti di capitale, come è capitato nel caso di Unicredito, dove i suoi azionisti hanno sottoscritto 3 miliardi di capitale. E tu fai bene a ricordare, Alessandro, che in realtà sono obbligazioni, si chiamano Tremonti Bond, quindi sono obbligazioni, però hanno la caratteristica di aumentare, sostenere la capitalizzazione degli istituti, quindi l'ibrido significa che di fatto aumentano il capitale degli istituti pur essendo delle obbligazioni, ecco perché poi sono un ibrido probabilmente conveniente per molte banche. Ma è importante, quando tu ricordavi che secondo quanto vi risulta, che domani leggeremo su Sole 24 Ore, all'opposto rispetto a quanto non sembrasse inizialmente, saranno molte le banche a chiederlo, e quindi potrebbero non bastare addirittura i 10 miliardi messi a disposizione dal Tesoro. Grazie a Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Brisoni veramente tutto, un augurio di buona serata a voi in ascolto, ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi.